Binario 1, è in arrivo il Regio per Tirano, partenza alle ore 17:38. Gleis 1 folgt der Regio nach Tirano, Abfahrt 18:38. Ciao. Bene, stai calmo. Ciao. Ciao.